Signore e signori, Gigi D'Agostino. Ciao, sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. Si sente l'uomo sapiente, si sente. Quando camminiamo fino al limite di tutta la luce che abbiamo e facciamo un passo nell'oscurità del non conosciuto, dobbiamo credere che accada una di queste due cose. O ci sarà qualcosa di solido su cui mettere il piede, o ci verrà insegnato a volare. Patrick Overton. Il cammino di Gigi D'Agostino. Se volete mandare i vostri sms con le vostre dediche, i vostri pensieri e i fattacci vostri e dei problemi vostri e se avete qualche protesta da fare, il numero è il seguente: 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Dai una mezzata, vai G. Cammino di Gigi D'Agostino, il tuo antidepresso. Rimani connesso. Perché si è fermato? Su, coraggio, si muove. Dai un po' questa cassa. Le persone che riescono in questo mondo sono coloro che vanno alla ricerca delle condizioni che desiderano. E se non le trovano, le creano. George Bernard Shaw. And just for a buck, in corrupts, and feel contentment, then sweetie, just get me off your back. Sono Gigi D'Agostino. Un suono per gli amici e per i parenti. Sabato 3 febbraio 2007, ore 22:30. Officina emotiva. Con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale. Presso la discoteca Lido. Discoteca Lido, Lido. La Igueglia. Savona. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Ogni giorno, all'ora sesta.

Ralph Waldo Emerson. Il cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Now I know how to fight. fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Poco, molto poco, ma io so poco, ma penso tanto, ma so poco, molto poco, anzi niente, l'uomo sapiente. Penso tanto, ma so poco, molto poco, anzi niente, l'uomo sapiente. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. E nella successione dei fenomeni. Tanto, poco, niente, so molto poco, anzi, sì, niente, l'uomo sapiente. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. L'uomo sapiente è fino. L'uomo fino. E come Aristotile, Cottile, chiaramente pure. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Il vero sapiente è colui che sa di non sapere. Socrate. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Dei fenomeni. Esci dalla giungla,

musicale, mentale. Gigi D'Agostino, musicale, mentale. Un DJ con le palle. D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarro. Domenica pomeriggio, 4 febbraio 2007, Gigi D'Agostino suona a Vicenza. Discoteca Smallville, tutti insieme faremo faville. Polizei, 5, 4, i giorni grigi. Scrivi a Gigi. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Il cammino di Gigi D'Agostino. Fatti un caffè, ma usa la moca. Gigi D'Agostino, reparto pelle d'oca. Di colori, e noi ci siamo messi in testa di ridurne la scala solo ad una ventina circa. Hermann Hesse. A tela per dipingere e dobbiamo usare tutti i colori possibili. Danny Kaye. Abbiamo bisogno di leggende. che queste leggende abbiano perlomeno l'emblema della verità. Mi piacciono le favole dei filosofi, rido a quelle dei bambini, odio quelle degli impostori. Voltaire. È la figlia diletta della libertà.